Occidentale è infatti un'aggiunta moderna. Le arcate e le campate sono ricoperte bloccate da un sistema di travi incastrate in testi tra il capitello e il felice dell'arco. Gli archi sono incorniciati da palle di granito in tufico fiorito e sormontati da una nicchia senza attrufino carenato, fiancheggiata da colonnine e conclusa da catene scanalate. Tra le arcate sono collocati medaglioni a rosette scanalate, il cui centro è sotto il suo centro di merito per compensare la distorsione della visione dal basso. Carattere che dominerà in età mammelucca. La finestra rettangolare incorniciata da stucchi, finta vicino a Mishrad, e parzialmente coperta dal Mozart, è quanto rimane di un Mozart, tradizionale sistema di ventilazione, collegato ad un'apertura sul tetto, coperta da un pannello inclinato. Negli anni 20 e 30 del secolo scorso, il comitato procedette alla costruzione degli edifici adottati alla moschea, furono distrutti allora per un malinteso senso della purezza stilistica, il portico nord che era stato rifatto in tutta la città e il minareto mameluco ottomano. Una errata lettura della pianta indusse il comitato a ricostruire un portico anche sul quarto lato del cortile, quello occidentale, che era stato invece presentato con il portico sfrattato. Allo stato attuale soltanto un arcato del lato della tigla formano tre navate parallele, si possono considerare autentiche e la moschea è rimasta priva di minareto. Un pannello decoratore geometrico, datato 1699, dono di Amire Marcellino al Ducandare, è stato restaurato nel 1998 dal Centro Americano di Ricerca a Buenos Aires. Nei primi anni del nuovo millennio, la moschea è stata oggetto di restauro conservativo. La Flesso al partito libanese Hezbollah di ritirarsi dal conflitto tra le Aleppo e l'attività militare al fianco delle truppe governative nell'assalto a Kosovo, che sta nel centro del paese contestato da Rovina. Il leader di Hezbollah, invece, l'altro ha rivendicato l'impegno delle sue milizie di insistenza di Assad, ha usato una retorica egemonica e attraversa allo scopo di estendere i soggetti di Hezbollah in una guerra basata con l'uomo e con il vivo, come se non comunicato. Molti dei contestanti del movimento di Hezbollah sono rimasti a fuga, altri si è insediato Thank you. Grazie. Responsabilità quattro relazione. Questa civile alla politica di intimità, aggiunga a superare giustizia, perché come vittima dichiara Assam Jahrir, membro pakistano della Nazione Unita. Per questo non dovesse accadere. Per colore non era certo l'esempio della Corte, bene, avverto avrei che la giudizione della Corte Penale Internazionale si estenderebbe anche al territorio della Tunisia e Turchia. In altre parole, se questo regime non dovesse terminare, sarà una forza terribile. Thank you. Sì. Thank you. Thank you. quindi per quindi sottoprendere a quei mesi e si è passato a di tutto e si è sentito che si è dell'anno questo che non fa la fine di mondo e mettono in risulta nel giorno che ha accordato ben fare una fiesta all'incidere con una sola scelta del valore della scienza nella sua il nostro grande nome sono e il reperto il suo signore avete vinto a tale riguardo un verso mio tanto potente della sua scuola di Torre e il mio signore e questo è il mio stato non vinci però per aspettare un grande rispetto a questo rischio di come il loro è rispetto per verso i rischi della sua scuola di la discreta in cui all'anno che dice all'anno sarà il livello di coloro che credono e che l'hanno ricevuto la scuola là è ben informato di ciò che fa mentre gli studiosi che è coloro che credono di più all'anno di ciò che fa e che è stato coloro di ciò che fa la scuola scusa e lui che dà origine verso l'impatto e al fondo di Allah sono fortunati le femmine e Allah è impotente il perdonatore mi rendi che come è la patria latina ha dettato in accesso la dignità della scienza e della fedeli non sono e il carino ha riportato che il soggiorno di Allah non sono da morte il merito del sacrificio che i lavoratori facendo il merito della lira su tutto il mondo i sacrifici sono i loro editori del processo il processo non è lasciato il loro editore Allah è mai detto perché tutto è un'altra cosa